Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è giorno di Milan-Barcellona, una di quelle partite che se a Paron Rocco avessero detto vinca il migliore avrebbe certamente risposto ciò speremo de no. Benvenuti a Vinitaly, padiglione 3, regione Trentino, stand Ferrari, famiglia Lunelli, bollicine d'autore, quindi per capirci tenetene conto, doveste cogliere qualche imprecisione. Di fronte a me, come ogni anno a Verona, e guai a interrompere queste tradizioni, c'è Osvaldo Bagnoli. Buongiorno Osvaldo. Buongiorno. Buongiorno. Intorno la squadra di Radio 24, che è composta oggi da Elena Ligios, da Davide Ciocia, da Filippo Aureggi, con Alessandra Scaglioni nelle veste di garante, che significa anche periodici ricorsi al palloncino. Osvaldo, partita storica quella di stasera. Io ti chiedo brevemente, poi ne parliamo più approfonditamente più avanti. Sei l'allenatore del Milan, come affronti questi mostri? Ma guarda, proprio ieri ti devo dire che siamo andati qua a Verona, no, dell'associazione, siamo andati con la mia macchina, ci stavamo in otto, no? Sì, certo. E siamo andati a un funerale che è morto il fratello del presidente della nostra associazione, cioè il fratello di Franco Nanni. Sì, no? Dopo ricordiamo a tutti chi è. Ecco. Fra i tanti discorsi è venuto fuori anche quello, perché c'erano Mascetti, Penso, Pierino Fanna, immagino, tutta questa gente qua. E siamo andati sul discorso proprio del come si gioca contro il Barcellona. No, come fanno a giocare anche così loro, insomma, ecco. No? Però il problema era quello di dire, se io proprio, è stato questo il discorso proprio, se dovessi giocare io contro questa squadra qua che farei l'allenatore, non so cosa fare. E ti devo dire che anch'io non saprei proprio cosa fare. Vabbè, pensaci, non è che puoi lasciarci così in sospeso. Intanto speriamo che lo sappia Allegri cosa fare, no? Anche memore delle due sfide di ottobre, insomma, che l'esperienza dice di quello che ha messo in difficoltà quando l'Inter è giocato a quella maniera. Eliminò, però l'Inter fece una gara difensiva, certo. Gli andò bene qualche contropiede e gli andò bene che alla fine loro sbagliarono due gol forse già quasi fatti, certo. Insomma, però lo superarono, insomma, via. Però giocarono una gara difensiva per metterli in difficoltà, insomma. Allora questo è l'inizio. Io adesso chiamerei in causa Nicola Roggero, non so se è già collegato, perché Nicola non ancora, allora perfezioniamo il collegamento con Nicola Roggero per i prossimi minuti e poi vi spiego perché, e continuiamo invece con Osvaldo Bagnoli su questo tema. Ti faccio sentire che cosa ha detto Allegri a questo proposito e quindi come pensa di impostarla lui, così ci dai subito un'idea se a parer tuo fa giusto o meno. Allegri: a livello psicologico credo che sia una partita talmente importante, di grande fascino, che non ci sia neanche bisogno di motivare più di tanto la squadra. Difficilmente potremmo fare una partita come ha fatto l'Inter in quella semifinale, perché l'Inter aveva caratteristiche di giocatori completamente diverse, una squadra più fisica, noi siamo una squadra meno fisica, e credo che questa squadra, sono convinto che è una squadra che difendersi vicino all'area faccia fatica. Sentito, questo primo approccio rispetto a quello che dicevi, l'Inter è una squadra più difensiva, più strutturata da quel punto di vista, il Milan non ce l'ha granché nel DNA, no, quello di difendersi. Sì. No? Però sono anch'io d'accordo che probabilmente avendo, diciamo, anche nel campionato, che sono abituati sempre a giocare, però devono sempre giocarlo in attacco, no? Certo. E forse mettere un pochino un po' di difficoltà alla difesa, forse non sono abituati, e forse è un tasto questo potrebbe qua che potrebbe essere la chiave. Potrebbe essere la chiave. Quando il Real Madrid negli ultimi confronti diretti, proprio nell'ultimo in particolare, ha provato a giocarsela coraggiosamente, li ha messi molto più in difficoltà di quanto non avesse fatto prima, difendendosi in maniera anche esasperata. Quindi può essere un precedente. Certo che anche il Real Madrid non è che sia esatto, questo è indiscutibile. Allora dicevo, benvenuto a Nicola Roggero. Buongiorno Gigi, buongiorno ascoltatori e un saluto anche ad Osvaldo Bagnoli. Allora, devo agli ascoltatori una breve spiegazione del perché di questo collegamento. Ieri pomeriggio, appena finita la trasmissione, appena sentita la notizia, insomma i risvolti di questo nuovo allenatore, questo nuovo ragazzo all'Inter, Stramaccioni, mi arriva un sms firmato per l'appunto Nicola Roggero che dice: se ti interessa, Stramaccioni è l'allenatore numero 18 da quando Moratti è all'Inter, cioè dal 95. Mentre il Manchester United, che è stato fondato nel 1892, ha avuto da allora a oggi 18 allenatori. Vorrei che, dato che tu eri il latore di questo messaggio, vorrei che ce la raccontassi e ce la spiegassi. Ma sì, una curiosità, perché appunto avevo sentito che Stramaccioni era il 18° allenatore della lista di Massimo Moratti. Io sapevo che lo United nel dopoguerra aveva avuto soltanto 7 allenatori, ma fin lì era facile perché mezzo secolo sono occupati da Matt Busby e dall'attuale allenatore Alex Ferguson. Ha fatto 50 anni da solo, è vero. Esatto, 50 anni da solo, fin lì era abbastanza agevole. Allora, per curiosità, sono andato a vedere dove bisognava risalire per arrivare a quota 18 per il Manchester United, e sostanzialmente sono risalito esattamente alla fondazione del club, cioè quando il Manchester United ha preso l'attuale denominazione. Un tempo era Newton Heath Lancashire Railways, perché appunto era stato fondato dai ferrovieri di quella regione. Da quando appunto il Manchester United divenne tale e da quando insomma si conosce la presenza di un allenatore, credo che prima non ci fosse questa figura, arriviamo appunto a quota 18. Ora, la curiosità è che se anche togliamo i 50 anni di Busby e Ferguson, che ovviamente alzano molto la media, scopriamo che gli altri 16 allenatori hanno comunque avuto una presenza media in panchina di circa 4 anni, che all'Inter di Moratti credo sia stata stoccata soltanto da Mancini. Sì, è vero. Comunque si dà tempo anche a chi non è una leggenda come Busby o Ferguson. Certo. No, ma difatti è chiaro che è una semplice curiosità, però mi sembra abbastanza interessante, mi sembra abbastanza clamorosetta. Che bello questo appuntamento con Bagnoli, scrive Francesco. Sono a tavola in una trattoria di Milano, è come se foste qua con me, quindi ordino un bicchiere di rosso e lo bevo alla vostra salute. Beh, un bicchiere, se poi deve guidare va bene il bicchiere, se no non è poi che ci sia. Lì non ha il controllo palloncino, credo, come abbiamo qui noi invece in questo momento. Volevo chiudere questo intervento di graditissimo di Nicola Roggero tornando ai 18 allenatori dell'Inter dal 95, cioè nell'era Moratti, e ai 18 del Manchester United nell'era Manchester United, cioè dal 1892. Io credo, Nicola, che con l'eccezione del Manchester, con l'eccezione dell'Arsenal, di Wenger, insomma, e di poche altre, in realtà noi in questi anni, noi italiani, abbiamo esportato la moda dell'allenatore usa e getta, anziché prendere gli esempi virtuosi dall'estero. Mi pare sia successo un po' il contrario, o mi sbaglio? No, hai perfettamente ragione. Basta guardare il Chelsea di Abramovich, dove oramai è praticamente impossibile per un allenatore, l'ultimo è stato Ancelotti, riuscire a fare la stagione intera. Il Chelsea ha avuto 6-7 allenatori dal 2005, da quando c'è arrivato, dal 2004 quando è arrivato Mourinho, a oggi, quindi sostanzialmente ha una media degna di un Zamparini o di un Cellino. Anche in Premier saltano regolarmente almeno 7-8 panchine all'anno, quindi magari non si arriva ai livelli dell'Italia, ma comunque si arriva a cifre piuttosto importanti, che hanno stravolto quello che era il modo di pensare di un tempo, quando insomma l'allenatore comunque si dava un ragionevole lasso per dimostrare il suo valore. Evidentemente anche lì si sono fatti prendere da una certa fretta, e come dicevi, a parte esempi virtuosi come il Manchester o come l'Arsenal o come il Liverpool, che tutto sommato anche lui ha delle medie piuttosto interessanti, 10 allenatori negli ultimi 53 anni, quindi oltre 5 anni di media per ogni tecnico, per il resto si assiste a un certo tourbillon. Che se vogliamo leggerla dal punto di vista degli allenatori forse è anche positivo, si creano più posti di lavoro. Se vogliamo invece leggerla sotto il punto di vista della serietà, allora insomma alla parola progetto mi pare che non esista, una parola di cui ci si riempie spesso la bocca ma che non si vuole assolutamente attuare. Nicola, grazie di questo intervento, grazie soprattutto di questa notazione statistica preziosa. Io credo che il 18 sia il numero da giocare, se non ho capito male, no? In questo periodo, perlomeno per i nerazzurri dipendenti. Augurando ogni bene a questo giovane allenatore Stramaccioni, che tra l'altro ho preso ieri, è laureato in giurisprudenza, quindi è uno che ha unito anche una buona attività accademica alla sua attività sportiva, e merita ogni rispetto. Direi che però in questo momento gli hanno fatto un bello scherzo, così a occhi e croce. Direi anch'io. Grazie Nicola. Grazie Stramaccioni a te, ancora Bagnoli. Certo, con grande piacere. Ferguson, tra l'altro, compirà 71 anni il 31 dicembre, Stramaccioni ne ha 36 appena compiuti, quindi insomma diciamo che siamo alla metà. Osvaldo, sentiamolo Stramaccioni alla sua prima intervista ufficiale da allenatore dell'Inter. No, la distanza metrica in effetti è poca, dallo spogliatoio nostro a quello della prima squadra, però a parte le battute è ovviamente un altro mondo. Per me è tuttora un orgoglio allenare questi grandi campioni, è un sogno, punto, perché puoi essere concentrato su come preparare il lavoro, puoi essere concentrato su cosa sviluppare in campo, su quello che devi dire a un calciatore, ma il termine paura penso che sia, almeno secondo me, inesatto. Io ho una certezza, ho la certezza del mio lavoro, cioè di quello che ho, delle mie idee. Secondo me l'entusiasmo è a mille, la paura di bruciarsi, cioè, a mio avviso non c'è, nel senso non c'è in che senso, che io devo andare in campo e cercare di fare, trasmettere quello che so fare, quello per cui il presidente mi ha chiesto di stare in campo. Caro Osvaldo, questo ragazzo, 36 anni, laureato, grande appassionato di calcio, pupillo di Sacchi, che non è detto sia un biglietto da visita, poi insomma il colore di questo biglietto lo valutiamo a parte, che percentuale di rischio c'è che possa bruciarsi verde in una situazione così difficile? Ma il pericolo io penso sempre che sia nel rendimento dei giocatori che dopo la tripletta sono andati tutti in discesa, insomma, via. Qualcuno perché è qualche anno più pesante, magari sì, perché è più anziano, qualcuno per altri motivi, ma che poi dopo, se io stamattina ho sentito il presidente dell'Inter alla televisione che aveva detto appunto che ha messo questo perché tanto ha vinto il campionato, poi nel settore giovanile sì, ci sono dei giocatori abbastanza che si può puntare, insomma, però ha detto che questo ragazzo è molto intelligente, molto sveglio e su questo si basa, insomma, no? Però un conto è lavorare nei ragazzi, un conto è lavorare con dei professionisti dove soprattutto l'importante è vincere, che ti misurano solo se vinci, se non vinci ti devi aspettare tanti giudizi, insomma, ecco. In genere in queste situazioni così difficili, quando una società vuole provare a testare, come l'Inter ha intenzione di fare adesso, vuole provare a testare i ragazzi che ha per capire su quali può eventualmente far conto per il futuro? Ma io penso intanto che se ha esonerato l'allenatore che c'era adesso, Ranieri, che aveva tanta esperienza, tutte queste cose qua, per provare in 10 partite e misurare una persona, penso che non so se il presidente sarà bravo in tante cose, ma su questo qua penso male, io dico, perché in 10 partite non so cosa può fare, insomma, ecco. Non sei tanto favorevole, insomma, no, a un'operazione come questa. Per me si pensa a dargli il tempo di se ha forse. Pensa al futuro e dice intanto comincia a farsi conoscere, poi l'anno conosce questi giocatori e poi dopo l'anno prossimo vedremo chi cambiare, una cosa e l'altra, la strada sarà questa di rinnovamento, penso. Ma se lo misura solo per vedere che risultati avrà o come tratterà i giocatori, non so, perché allora non ha il tempo nemmeno di conoscersi, i giocatori non conosceranno lui e lui non conoscerà ancora i giocatori, penso. Sì, hai citato un'intervista a Moratti, allora fermo restando che anche da Vinitaly, anche in questo brusio di fondo che probabilmente ascoltate, no? E che è in realtà la vera colonna sonora di Vinitaly, perché voi capite bene che in un posto, nella più grande fiera di vino d'Europa, è ovvio che il vino poi muova la chiacchiera, no? E quindi sullo sfondo di questo stand della Ferrari probabilmente sentirete questo che fa atmosfera. Dicevo, prima sentiamo che cosa ha detto Moratti, può darsi che sia l'intervista che stavi citando tu, e poi, nonostante siamo oggi da Verona, voi potete intervenire come sempre all'800 24 00 24 e sarete come ogni giorno i benvenuti. Moratti. Beh, diciamo, siamo partiti così male che dopo era difficile ripartire, poi dopo che lui possa essere un bravo tecnico, con l'Inter non è andata così. Nel momento che un ragazzo ha quel talento, che si è visto anche nella sua intervista o nella sua presentazione, incomincia subito ad aprire dei progetti nuovi, insomma, quando ti rendi conto che ha quel talento, non soltanto nell'esprimersi, anche, e finora l'ha espresso anche nel calcio, ma devo dire che noi un certo pensiero per il futuro, se lui fa bene, perché non dobbiamo averlo? Va bene, chiudiamo o comunque accantoniamo in attesa, ripeto, di eventuali vostri interventi questo capitolo e torniamo a Milan-Barcellona in attesa poi invece di andare un po' più avanti con Osvaldo Bagnoli dopo. Ma Osvaldo è subito richiamato in causa per Messi, perché io leggo i messaggi che arrivano sul display e sono domande basiche, se vogliamo, sono domande perfino un po' superate, io credo, dal modo di difendere nel calcio che esiste oggi. Però uno come Messi, continuano a domandare gli ascoltatori, è giusto contrastarlo a zona come oggi si difende normalmente, o non sarebbe invece una possibilità diversa e più efficace quella di provare a incollargli, a francobollargli un uomo come si faceva una volta? Ma proprio anche ieri abbiamo fatto questi discorsi qua, no? Immaginavo. Io ti dirò che mi sono trovato settimana scorsa anche in una serata dove c'era l'allenatore del Verona, no? Attuale Mandorlini? Sì, Mandorlini, no? E parlando, perché eravamo fra gente di sport, e io gli ho detto: senti, io ormai sono fuori, ho paura, ho un certo timore a dire certe cose, però sì. Al giorno d'oggi si potrebbe cercare di annullare un fenomeno in una squadra che tu incontri come avversario, perché dici: io gioco in 10, cerco di giocare in 10, però quello lì giocano in 10 anche loro. E lui ha avuto di dubbi su questo, perché al giorno d'oggi non so se probabilmente l'avrà detto, perché probabilmente non sono più a trovare gli uomini giusti. Non hai più l'uomo. Perché io ho visto Inter Juventus, anche Poli, che ha messo giù, che sarà un bravo giocatore, della Sampdoria, l'Inter, ha fatto questo passaggio, vuol dire che ha molta stima sotto questo aspetto qua. Però quel poco che si poteva vedere in televisione, capivi che non era una persona abituato ad andare a mordere, andava a flottare su Pirlo, ma no, a volte lo cercava. Sì, cercava, no? Pirlo, ma non doveva succedere questo, perché certo. Doveva essere dietro il sedere, come si usa dire, del suo avversario, insomma. Certo. E questo è stato il discorso anche che è venuto fuori ieri, insomma, probabilmente al giorno d'oggi non sono più abituati a marcare in questa maniera. Mi sembra una bella osservazione. I nostri ascoltatori mi pare abbiano preso sul serio questo non gioco, queste riflessioni che stiamo facendo sul modo di marcare Messi in particolare, ma anche una squadra superiore in generale, sul discorso della marcatura uomo che Bagnoli faceva in questo momento in qualche momento fa, e che non è ancora vietato dalla legge, per carità, però in compenso è passato di moda, non tanto come moda, ma per il fatto che non sono più abituati a fare queste marcature qua. Allora Massimo da Pesaro, per esempio, scrive: l'ultimo messaggio arrivato, Bonera, Nesta, Antonini difendono a tre, Mexes va a uomo su Messi e abbiamo risolto il problema. Io penso che ha risolto il problema il Barcellona, se Mexes con quelle gambe così lunghe e lento com'è nei primi passi va uomo su Messi. Io adesso non voglio, no, ma non per mancare di rispetto, ecco, no. Non voglio mancare di rispetto e non voglio neanche dare l'impressione del Saputello, insomma, però il discorso è sempre se lui avrà le caratteristiche di questa, certo, cosa qua, certo. Perché io nella pausa abbiamo parlato, io sì, anche ieri avevamo parlato di queste cose, no? Parlavamo del nostro Volpati, che a 34 anni marcava gli uomini, e perché era abituato. Era abituato alla squadra, perché ad avere un uomo mentalmente, che... era abituato sotto tutti gli aspetti, insomma. Era abituato, beh, poi qualcuno qui ci ricorda evidentemente Gentile, le storiche marcature, certo, del mondiale, di Gentile, no? Sì, certo. Volpati a Verona lo ricordo benissimo io. Lui prendeva... Sì, che poi quando quel giorno nasce la prima partita con Maradona, che era la prima partita che faceva, perciò si conosceva, ma non tanto bene, no? Certo. E che io non volevo stravolgere, perché mi serviva Volpati, perché avevo squalificato Fontolan, mi serviva in un altro ruolo. E allora il e io, per non stravolgere la mia di squadra, domandai, certo, a Briegel se se la sentiva, e lui mi disse che l'aveva già marcato e si era trovato bene. E allora, perciò, una volta una risposta del genere, che l'avrebbe marcato volentieri, basta, avevo risolto il mio problema. E infatti quel giorno si trovò male, niente meno che Maradona, certo, non l'ultimo della pista, certo. Si capisce, anche perché io credo che oggi, se saltasse fuori davvero una marcatura uomo a sorpresa contro un grande giocatore così, la squadra che attua questa marcatura un po' stravolta ne risulterebbe per forza, perché è chiaro che oggi si difende, sì, in un'altra, certo, maniera, ma l'oggetto della marcatura a sua volta ne soffrirebbe davanti, perché non che è più abituato, non sono più abituati anche loro. Scusa, sbaglio? Vabbè, lasciamo, Totti ha sempre avuto un brutto carattere, no? Io e te, sì, siamo due grandi estimatori di Totti, no, calciatori. Io non ho vergogna a dire che io guardavo la partita della Roma perché c'era Totti. Bon, essendo in due fino a non molto tempo fa, molti non saranno d'accordo, noi invece la pensiamo così. È un fatto estetico, però ricordo che Totti, col suo pessimo carattere, quando nel 2004 sbroccò all'Europeo e sputò a quel danese, sì, in realtà sputò, cioè perse la testa, perché non stava marcando a uomo, perché Totti, certo, non era più abituato, può darsi che era nervoso, aveva, certo, uno che lo stava marcando come, certo, Sogliano marcava Corso negli anni, certo, 60, faccio, sicuro, per dire, no? Certo. E quindi questo ha sbroccato oggi sicuramente, se non è non dico un fenomeno, ma se no, di solito si reagisce in quella maniera, quando le cose non sono come le vuoi te. Certo, e come sei abituato a viverle, no? Da tanti anni ormai. Dai, sentiamo qualcuno, perché poi con te devo parlare di due argomenti seri, ma prima vorrei dalla linea sentire la voce di due o tre ascoltatori, rapidi vi prego. Cristiano da Prato, buongiorno. Buongiorno, senti, saluto con piacere il nostro mago della Bovisa, ai tempi dell'Inter, sì, mi ricordo che... ho visto tante sue partite, gli volevo chiedere, mi ricordo in quegli anni lei fece una battuta che mi è rimasta impressa, tipo, ma io ai giocatori non posso mica mettergli il peperoncino in quel posto, no? Nel senso, come dire, non posso, sì, caricarli se uno, sì, non è una, è una delle mie frasi, ho capito, sì. La riconosce come la tale. Riconosco. No, ma è indimenticabile, fortissimo. Senta, le chiedo, alla luce dell'Inter e del Chelsea di quest'anno, tutte e due squadre, diciamo, un po' parallele, un po' a fine ciclo, giocatori bravi ma un po' usurati, ecco, il Chelsea abbiamo visto che con il cambio di allenatore era evidente che forse lo spogliatoio, come nell'Inter con altri allenatori, non lo gradivano molto, perché dopo aver fatto quella disastrosa, sì, partita, meno male che era breve l'intervento, Cristiano, sì, no, dopo la partita disastrosa a Napoli, dopo abbiamo visto il Chelsea che tipo di squadra è. Certo. Ecco, dico, invece, non so se su questa sua affermazione lui si è un po' riferito, perché a questo punto vedo che nel calcio il 70-80% contano le motivazioni. Abbiamo visto l'Inter quest'anno, 7 partite, 7 vittorie, dopo, perfetto, si sono sgonfiati. È vero. Grazie dell'intervento, che aveva qualcosa nel comizio. No, vorrei essere chiaro in queste cose, sì, qua, no? Io sono stato un modesto giocatore, però sono stato anche giocatore. Se l'allenatore a me veniva a rompere molto l'anima, sì, no? L'anima, come certo, magari sentire certe cose da fuori campo, a me seccava. Il fatto stesso che mi potessero dire che io ho giocato bene con temperamento, perché me l'ha trasmesso un'altra persona, io non ci stavo, non l'accettavo una cosa di questo. Non l'accettavi e basta. Per me possono dire tutto quello che vogliono, però io penso che ho dei vantaggi se il giocatore se lo trova da solo, il temperamento, il carattere, tutte queste cose qua. Io non ho mai fatto l'allenatore sotto questo, con questo come si può dire, con questa mentalità. Quindi quando... Ho fatto allenatore per 22 o 23 anni, sempre lasciato che il giocatore, se poi dopo non è capace, allora cercherò di fare qualcosa per vedere di rimediare, ma se no cercherò di prendere un altro giocatore che ha il suo carattere. Bravissimo. Perché è quello, quindi devo averla da solo un giocatore. Quindi anche, vedi, anche tu, quando senti dire che quell'allenatore è formidabile nel dare la carica, ti rovesci sul divano a ridere come faccio io? Dio, non arrivo a quel livello lì, ma insomma la penso un po' così, lo sto dicendo, perché quello. Anch'io, più nella mia modestia di calciatore, insomma, però sono nato nel Milan. Non è che sono nato, insomma. No, facevi anche, scusami, dato quando sei nato, perché ripassiamolo, dato che stiamo parlando di qualche era geologica fa. Ho fatto vincere anch'io un campionato, perché feci 10 presenze in un anno dello scudetto del Verona, del Milan, del 55. E prendevi il posto di un certo Schiaffino quando non giocavo. No, prendevo il posto di Schiaffino o di qualcun altro, ma insomma anche di Schiaffino o di Lidl magari. 10 presenze. E probabilmente anch'io non avevo un grande carattere, un grande temperamento. Dopo 4, 5, 6 anni, quando andai a Udine, poi andai a Catanzaro, soprattutto a Catanzaro, imparai anch'io cosa vuol dire il carattere della persona. E l'ho imparato purtroppo troppo tardi. Certo. È chiaro, l'allenatore è bravo se è capace di far imparare il carattere, se uno non ce l'ha. Di accelerarlo, di favorirlo. Ecco. Ma però quello che è tuo. Certo. So, sembra un intervento da Vinitali, in realtà è una lezione magistralis di pallone questa qua, lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando. Allora chiedo un attimo di pazienza a Mirko dalla Spezia, che sarebbe il primo in lista per intervenire, perché vorrei continuare un pochino su questa esperienza da calciatore. Tu adesso hai, tanto non siamo tra signore, no? E quindi tu vai per i 77, io ricordo che Enzo Bearzot, no, ma se dici 78 io mi godo ancora di più, perché sì, no, dicono, non so, 78, come le porta vai bene. Per il 77, che adesso non esageriamo a aumentarceli, no, sono 76 e mezzo al momento, fino a luglio. Io ricordo che quando Enzo Bearzot, tu volevi fare un piacere vero, non gli dicevi lei o tu sei quello che ha vinto il campionato del mondo, gli dicevi tu sei stato il capitano del Torino, tu hai giocato tanti anni in Serie A, certo. 300 fischi a partita. Mi pare di capire dall'accento che hai usato prima che lo stesso complimento si fa a te. Cioè, anche tu, sì, più sì, che quello che ha vinto un campionato, no, allenato il Verona, sei quello che ha giocato tutti quei che campionati. Mi dispiace che non penso che io sia stato la prima ala destra del Verona in Serie A. Per esempio. Questo non lo sanno. A me mi gira l'anima. Che non sappiano questo. Seguono tante cose e non sai una delle cose, di queste cose qua. Ripassiamogli questi fondamentali, no? Sti veronesi che stanno. No, i veronesi lo sanno. Ma insomma, mica tanto, io leggo i messaggi qua. No, ma io posso capirli, perché? Perché io giocavo 60 anni fa. Certo, un'era geologica, anzi sono due ere geologiche ormai. Che bello sentire Bagnoli come uno di noi, scrive Bruno da Brescia. Non è l'unico, io ne cito uno ogni tanto. Tu hai giocato anche da ala, quindi, a Verona. Sì, giocavo da ala, anche a Milan giocavo da ala, perché allora a Milan c'era gli allenatori avevano avuto, come Sorensen, avevano spostato, perché c'era Recagni, una cosa l'altra, Schiaffino, spostavano magari la mezzala. Un giocatore di quelli che aveva, poteva fare anche la parte difensiva alla destra, come Sorensen, certo, quello che c'era. E anch'io ho provato a giocare nel Milan come alla destra, perché una mezzala che si allargava, che io non accettavo tanto volentieri il numero 7, perché mi piaceva giocare in mezzo al campo, no? però se forse mi rendevo conto di certe cose, giocavo col 7, perché forse avrei fatto anche qualcosa di più, perché era forse un ruolo che mi si adattava di più. Vediamo se c'è qualcuno che mi scriverà nei prossimi minuti e si ricorda di te, calciatore a Catanzaro, a Ferrara. Bisogna che abbia 70 anni. Abbia 70. Beh, ma noi abbiamo ascoltatori giovani, meno giovani, abbiamo ascoltatori di tutte le età, quindi quello. Dai, poi abbiamo ancora un capitolo molto interessante che ti riguarda in prima persona, ed è un capitolo ancora più nobile della tua carriera di calciatore. Allora, prima di dimenticarcene, perché adesso bisogna stringere un po' i tempi di questi ultimi minuti, l'appuntamento con la giornata, e quindi con il 28 di marzo, ripassato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 marzo 1920. L'Italia rimedia un brutto 3-0 dalla Svizzera in amichevole a Berna. Non è quindi una circostanza memorabile l'esordio in azzurro di Leopoldo Conti, professione ala, una delle prime star del calcio italiano. Per acquistarlo l'Inter aveva versato alle Notria 100 lire, una cifra notevole per l'epoca. In nazionale Conti giocherà 31 partite, molte considerata la frequenza meno fitta delle partite dell'Italia in quegli anni. Ma Leopoldo Conti verrà ricordato anche per aver avuto un ruolo importante nell'affermazione di Giuseppe Meazza. Da capitano dell'Inter spingerà insieme al compagno di squadra Bernardini per far esordire il giovane attaccante e nei 4 anni in cui giocheranno assieme gli fornirà assist e consigli preziosi. Beh, avete sentito, 100 lire per un calciatore, eh? Vabbè, che lì di ere geologiche ne sono passate davvero tante. Adesso abbiamo 2 ascoltatori che sono in linea da un po' e che quindi spero non si dilunghino per vendicarsi. Mirko, La Spezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire riguardo al discorso della marcatura uomo a zona su sì. Messi, il problema non è solo Messi nel Barcellona, il problema è che tu blocchi Messi, a parte che dopo 30 minuti avendo 4 buone marcare, perché se prendono ne vanno fuori 2 finisci in 9 il primo tempo e poi devi avere anche la capacità di guardare Xavi e Iniesta, perché con l'Inter non c'era neanche Iniesta quando l'Inter ha vinto, ma lì sì. Sono tutti buoni, cioè, il problema grosso è il Barcellona. Messi sì, fortissimo, più forte del mondo, però messo nell'Inter, nella Juve, nel Milan, ti marchi quello e va abbastanza bene. Nel Barcellona non è possibile. Cioè, prima di tutto, ripeto, il difensore ce ne vuole 4. Certo. Grazie mille. Allora, il principale è quello. Andiamo a Milano da Andrea. Buongiorno. Buongiorno, sono tifoso interista. Sì. Mi ricollego al discorso delle 100 lire adesso. Quello che dico io è che trovo scandaloso come una società come l'Inter possa cambiare allenatori su allenatori, quindi ovviamente bisogna pagare anche una buona uscita con i chiari di luna che corrono alla crisi che c'è. E poi guardando il bilancio di quanto ha speso Moratti, che praticamente è tipo un quarto del debito pubblico italiano, avere avuto i risultati che ha avuto in quest'anno, cioè praticamente, come dire, quasi un mezzo fallimento. Una società deve investire. Senta, Andrea, io sono d'accordo con lei su certi eccessi, ma un quarto del debito pubblico italiano, cioè questa è un'idiozia assoluta, no? In piena regola, che poteva sinceramente risparmiarsi. Torniamo da Osvaldo Bagnoli e torniamo non più adesso alla carriera da calciatore attivo, ma a quello che ti appresti a fare tra un'oretta circa, perché mancano 10 minuti alle 3, siamo al Vinitaly a Verona, ripeto, in zona fiera. Qual è il quartiere dove c'è questa associazione Albero delle Mele? Borgo Venezia. E quindi quanto impieghi da qui adesso? Quarto d'ora. Come? Tu ti muovi in filovia, no? In genere. Beh, adesso devo andare a prendere la macchina, adesso l'ho lasciata in un posto dove ci poteva lasciare. Sì. Ho preso la filovia e farò lo stesso, perciò invece di un quarto d'ora ci metterò una mezz'oretta, pochino di più per colpa nostra che ti abbiamo trascinato qua, però oggi. Siccome alle 4 perciò ecco. Faccio e alle, poco tempo. Alle 4 cosa succede in Borgo Venezia? Aspetta che in via Fraccaroli sì. All'associazione Albero delle Mele. Niente, è nato diciamo una scuola calcio, via, ecco, ma una scuola calcio nel senso non con mire di creare giocatori, nulla toglie che poi se poi uno avrà delle qualità e neanche di spendere dei quattrini mi risulta, e nemmeno di soldi, insomma, di far divertire i ragazzi come una volta che andavano all'oratorio, tanto per dire, dove si conoscevano. Anch'io i primi calci li ho dati all'oratorio, i primi amici li ho fatti all'oratorio, mi ricordo già 70 anni fa, insomma, ecco. E allora qualcuno che ha quest'idea è stato convinto che forse era una bella cosa da fare e siamo andati avanti. Diciamo che l'idea è venuta dal nostro presidente che è Nanni, Franco Nanni. No? Che è Franco Nanni, e che insomma soprattutto ha visto tante cose diciamo sotto l'aspetto dell'associazione qua, però di certi certo. Aiuti lui va, ha una moglie che è spagnola, va in Spagna e io dico sempre ha rubato un po' qualcosa a Barcellona sotto questo aspetto qua, insomma, ecco, per fare nel senso migliore per, di fare, un'idea, per cioè. Fare la nostra associazione. Dopo ha avuto anche questa idea di fare tipo l'oratorio, associazione, ecco. ex calciatori Hellas Verona, sì, che si occupa di mille iniziative, che è composta, che è presieduta da Franco Nanni, i vicepresidenti sono Bagnoli, Mascetti, i componenti e Maddei, i componenti sono tra gli altri, oltre a questi, Fanna, Penzo, grandi gialloblu, che sì. Io ogni volta che penso all'associazione ex amici gialloblu e alla passione che su, quindi no, c'è da dire che sì, questo, perché adesso io ho detto questi gli ultimi anni, però dobbiamo anche noi, se abbiamo fatto questa cosa che abbiamo tutti dei complimenti, dobbiamo ringraziare anche un nostro compagno che è Selmo, perché i gialloblu 70 esistono dal 1970, che andavamo a fare le partite dove ci chiamavamo noi ex, no? Certo. E a un certo punto, siccome cambiava la generazione, c'erano pochi che avevano voglia di venire a giocare a una certa età, invece Selmo, che è un ragazzo che si dà da fare, allena dei ragazzi, una cosa e l'altra, trovava tanti ragazzi da portare a fare il numero, diciamo, no? Se magari eravamo in 10 e dovevamo andare in 16, tanto per dire, per fare una partita, lui riusciva a tirare su tanti amici che giocavano al calcio. Dicevo, ecco, che è una contraddizione addirittura sconvolgente, la cultura, la passione disinteressata evidentemente, l'altruismo che c'è in questa associazione ex amici del Verona, composta da voi, e cioè il contrasto stridente invece con la tifoseria attuale del Verona, purtroppo, no, una parte cospicua che tra razzismi e fascismi assortiti veramente squalifica una città, no? E una tifoseria che invece, anche per come sta andando Verona, meriterebbe ben altro. L'abbiamo fatta lunga. Osvaldo, c'è tempo soltanto per i saluti e per i ringraziamenti. A te innanzitutto, grazie. A tutto lo staff di Radio 24, però devo dire che il presidente attuale del Verona ha ragione. Si sta battendo duramente e coraggiosamente contro questi mentecatti di ultra che stanno rovinando l'immagine della società e della città. E anche qualche sgrido dovrebbe farlo all'Unione a Calcio, lì come si chiama, perché quelli che prendono certe decisioni mi pare che certe volte possano esagerare.